Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, un giorno disse queste parole. Queste parole sono trascritte in Giovanni al capitolo 3, versetto 14 e 15. Ecco che cosa disse Gesù. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figliol dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Ora, per comprendere a che cosa Gesù si riferì, quando, a quale evento Gesù si riferì quando disse e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, bisogna andare nel libro dei numeri, al capitolo 21, dove si parla di un giudizio di Dio che si abbatté sugli israeliti per questa ragione, perché avevano parlato contro Dio e contro Mosè. Mosè era l'uomo che il Dio aveva scelto e che aveva mandato in Egitto per trarre fuori il popolo di Israele, appunto, dal paese d'Egitto, affinché si adempisse quello che il Dio aveva detto molto tempo prima al patriarca Abramo. Ebbene, dopo che il Signore trasse il popolo di Israele dall'Egitto, lo fece, lo fece camminare per il deserto, per condurlo nella terra che aveva promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Ebbene, durante questo viaggio gli israeliti si resero colpevoli a più riprese, diciamo, di varie trasgressioni, di vari peccati, e il Dio li punì. Uno di questi peccati, appunto, è trascritto nel capitolo 21 dei numeri, con relativo natura conseguenziale giudizio di Dio. Leggiamo appunto l'evento perché è molto importante al fine di capire quello che Gesù disse. Capitolo 21, dal versetto 4. Poi gli israeliti si partirono dal monte Hor, muovendo verso il Mar Rosso, per fare il giro del paese di Edom, e il popolo si fe impaziente nel viaggio. E il popolo parlò contro Dio e contro Mosè, dicendo: perché ci avete fatti salire fuori d'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua, e l'anima nostra è nauseata di questo cibo tanto leggero. Allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente, e gran numero di israeliti morirono. Allora il popolo venne a Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro te. Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. E l'Eterno disse a Mosè: fatti un serpente ardente e mettilo sopra un'antenna, e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà scamperà. Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un'antenna. E avveniva che quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, scampava. Dunque il serpente di rame che Mosè pose sopra un'antenna per ordine di Dio serviva questo. Serviva a far sì che chiunque guardasse quel serpente di rame, dopo essere stato morso da un serpente ardente, succedeva appunto che quella persona scampava alla morte. Ora, Quindi quel serpente fu messo sopra quell'antenna, per ordine di Dio. Era un serpente di rame. Ora, Gesù, conoscendo questa storia, si riferì dunque ad essa quando disse: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Allora abbiamo visto appunto a che cosa Gesù si riferì quando parlò dell'innalzamento del serpente nel deserto. Adesso vediamo a che cosa Gesù si riferì quando disse: così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Allora intanto vediamo che cosa ha voluto dire Gesù dicendo così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Per capirlo leggiamo queste parole che sono trascritte sempre in Giovanni al capitolo 12. Allora Gesù disse queste parole ai giudei: ora avviene, al capitolo 12, versetto 31, ora avviene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, e io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. Così diceva, per significare di qual morte doveva morire. Ora, quindi, l'espressione bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, voleva dire che era necessario che Gesù fosse crocifisso, appeso al legno, che fosse inchiodato sulla croce, perché questo è il significato di quelle parole. Infatti abbiamo visto che quelle parole Gesù le disse, quelle al capitolo 12, per significare di qual morte doveva morire, perché Gesù sapeva di che morte doveva morire. Egli sapeva che doveva morire crocifisso, ucciso dai giudei, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia. Che cosa aveva infatti detto il profeta Isaia in merito al Messia o Cristo? Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Quindi Gesù doveva essere posto sulla croce, perché si doveva caricare, il Cristo si doveva caricare dei nostri peccati e li doveva portare nel suo corpo sul legno della croce. E questo è quello che avvenne. Ecco perché vi annunzio che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture. Quindi Gesù Cristo stesso preannunziò non solo che doveva morire, ma anche il modo in cui doveva morire crocifisso, e coloro che lo crocifissero furono i giudei infatti che uccisero il Signore Gesù Cristo. Questo infatti l'Apostolo Pietro lo dirà agli ebrei il giorno della Pentecoste, quindi dopo che Gesù risuscitò dai morti, dopo che Gesù apparve, dopo che Gesù fu assunto in cielo, alla destra del Padre. Queste parole l'Apostolo Pietro, uno dei dodici, le pronunziò a Gerusalemme davanti veramente a tanti ebrei, quindi uomini ebrei di nascita. C'è scritto: uomini israeliti, udite queste parole cioè, sono parte della sua predicazione che appunto rivolse agli ebrei il giorno della Pentecoste. Uomini israeliti, udite queste parole: Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi per man di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Quindi vedete quello che avvenne e che Gesù aveva preannunziato. Cioè, aveva preannunziato che gli uomini giudei lo avrebbero ucciso. E tutto questo, vi ripeto, avvenne per, affinché si adempisse quello che era stato detto, e quindi affinché si adempisse ciò che Dio aveva innanzi determinato dover accadere. Naturalmente, Gesù fu risuscitato dai morti, perché fu seppellito, ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti. Anche questo, cioè la sua risurrezione, avvenne affinché si adempisse ciò che era stato preannunziato da Dio, perché il Dio, per mezzo di Davide, aveva preannunziato la risurrezione del Cristo in questa maniera, facendogli dire a Davide, che era profeta: anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ade se non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Davide naturalmente non parlò di sé, ma parlò del Cristo, antivedendo la sua risurrezione, la risurrezione del Cristo. Disse che il Cristo non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. E questo in effetti si è adempiuto, perché Gesù Cristo il terzo giorno risuscitò dai morti. Dopo essere risuscitato dai morti, egli apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Ma torniamo all'innalzamento di Gesù dalla terra. Quindi fu necessaria la sua morte. Gesù infatti sapeva che era venuto nel mondo per morire, sì, per morire, e per morire appunto ucciso dai giudei. Infatti lo aveva preannunziato lui stesso ai suoi discepoli diverse volte. C'è scritto in una circostanza in Matteo che Gesù dichiarò ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti, dagli scribi, ed essere uccise e risuscitare il terzo giorno. Vedete? Doveva. Gesù sapeva che doveva essere ucciso. In un'altra circostanza c'è scritto che Gesù disse loro, cioè ai discepoli suoi: il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini e l'uccideranno e al terzo giorno risusciterà. Come potete vedere, quindi Gesù preannunziò la sua uccisione da parte di uomini peccatori, da parte dei giudei. Dunque, la sua morte fu necessaria, come fu necessario che Mosè innalzasse quel serpente di rame nel deserto, che lo ponesse sopra un'antenna. E così fu necessario che Gesù Cristo fosse posto sulla croce. Perché appunto sulla croce egli doveva versare il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Difatti, di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. E dunque era necessario che Gesù fosse innalzato dalla terra, quindi era necessario che Gesù fosse crocifisso affinché, ascoltate cosa ha detto Gesù, chiunque crede in lui, cioè nel figlio dell'uomo, abbia vita eterna. Quindi affinché chi crede nel Signore Gesù Cristo non perisca, ma abbia vita eterna. Perché è per questo che Dio ha dato il suo figliolo Gesù Cristo. Infatti è scritto: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi tu che mi ascolti, che sei sotto il peccato, devi sapere questo: per ottenere la remissione dei tuoi peccati devi credere nella buona novella che Gesù è il Cristo, e quindi che in lui si sono adempiute le scritture profetiche concernenti il Cristo. Credendo nella buona novella otterrai la remissione dei tuoi peccati, e non solo la remissione dei tuoi peccati, ma anche la vita eterna. La vita eterna, infatti, si ottiene credendo nel Signore Gesù Cristo, chi crede a vita eterna, perché la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù. Quindi, a te che mi ascolti, ti dico questo: ravvediti e credi. Credi nel Signore Gesù Cristo, credi in colui che è stato innalzato dalla terra, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Devi credere in lui, devi guardare a lui. Come gli israeliti, dopo che erano stati morsi dai serpenti ardenti, dovevano guardare a quel serpente di rame posto sopra un'antenna per scampare alla morte, tu devi credere nel Signore Gesù Cristo per essere perdonato e per quindi scampare alla perdizione alla quale tu stai andando incontro, perché tu sei sulla via della perdizione. Morissi in questo momento, tu andresti all'inferno. Ma ascoltami, se ti ravvedi e credi nel Signore Gesù Cristo, in colui che è stato innalzato dalla terra, tu otterrai la vita eterna e quindi scamperai alla perdizione. Il Signore ti strapperà dal fuoco dove tu sei diretto. Ma se tu rifiuti di ravvederti e di credere nell'Evangelo, andrai all'inferno, in questo luogo di tormento, quando si dice, appunto, quando la scrittura parla di perdizione, la via, appunto, che tu stai percorrendo è la via che mena in perdizione. Per perdizione si intende quando l'uomo muore immediatamente dopo la sua morte, quel luogo di tormento dove vanno appunto coloro che sono perduti, coloro che muoiono nei loro peccati, e tu stai andando in quel luogo, peccatore. Per quello che appunto devi credere nel figliolo di Dio per ottenere la remissione dei tuoi peccati e la vita eterna, solamente in questa maniera scamperai. Solamente in questa maniera, credendo nel Signore Gesù Cristo. Non c'è un altro salvatore che appunto ti possa salvare. Non esiste, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quindi io ti ho annunziato l'Evangelo, la buona novella, che Gesù è il Cristo, e quindi che credendo nell'Evangelo tu puoi essere perdonato e ottenere la vita eterna. Potrai scampare solamente, te lo ribadisco per l'ennesima volta affinché ti sia chiaro il concetto, potrai scampare alla perdizione alla quale tu, diciamo, stai andando incontro solamente credendo nel Signore Gesù Cristo. Ravvediti dunque e credi in colui che fu innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Chi ha orecchi da udire, oda.